Effetto Mondo. The Prime Minister asked me as First Secretary to deputise for him where necessary in driving forward the government's plans to defeat coronavirus. Buongiorno Giulia Crivelli, ciao Giulia. Ciao, buongiorno Alessio. Allora, cos'è che abbiamo sentito in sottofondo? Era la voce, sicuramente molto dimessa, era anche, insomma, guardarlo si vedeva che era emotivamente molto coinvolto, è il ministro degli esteri britannico Dominic Raab, che è stato investito, perché non era una carica ufficiale prima, di questo, praticamente di fare le veci del premier, mentre appunto Boris Johnson è in terapia intensiva. È stata una cosa, un annuncio a sorpresa, diciamo, che è arrivato ieri pomeriggio. Poi, come hai detto tu anche prima, non ci sono grandi novità. Boris Johnson ha avuto bisogno stabile, di ossigeno, sì. Ma non sarebbe intubato al momento. No. Questa decisione di cui parlano tutti i quotidiani britannici è senza precedenti, perché l'unico precedente recente è Tony Blair, lo ricorda il Times, che aveva avuto bisogno di un intervento chirurgico al cuore, ma era stato tutto molto preparato. Anche in quel caso c'era stato naturalmente un suo vice per il periodo in cui lui non poteva svolgere il suo lavoro, però era stata una cosa preparata nei minimi dettagli. Qui invece non è andata così, quindi tutti i quotidiani britannici ovviamente hanno la foto di Boris Johnson, l'ultima disponibile, cioè quella in cui lui ha fatto un videomessaggio su YouTube e si vedeva, aveva gli occhi tipici di chi ha la febbre alta, era spettinato, ma davvero spettinato. Poi si era anche affacciato nella sera in cui c'era stato l'applauso collettivo pubblico ai lavoratori della sanità, però poi appunto non si erano più avute, quindi quella è l'ultima foto che si ha. Ti voglio chiedere, Giulia, visto che hai sotto mano i giornali britannici e conosci questa realtà molto, molto bene, lui è stato ricoverato subito, appena entrato ha fatto un tweet minimizzando, dicendo niente problemi, tutto sotto controllo eccetera, poi la sera invece è stato ricoverato in terapia intensiva. Pensi che sia successo qualcosa nel frattempo, oppure è la sua strategia comunicativa così di depistare un po', cioè conosciamo Johnson da questo punto di vista? Sai, molti giornali, soprattutto il Guardian in questo caso, dice non possiamo definirlo un negazionista, però sicuramente è stato un minimizer, cioè uno tra quei leader che finché ha potuto ha minimizzato la crisi. Poi ci sono, non voglio tirare in ballo la storia dell'immunità di gregge, perché in realtà riascoltando quella famosa conferenza stampa non è che avesse proprio detto sacrifichiamo gli anziani perché così avremo l'immunità di gregge, però era sicuramente stato, lo dicevamo anche ieri, a tutt'oggi nel Regno Unito nessuno è obbligato a stare a casa, sono raccomandazioni, quindi è stato, diciamo appunto, un minimizzatore. Dopodiché ci si esercita anche sulle sue condizioni fisiche, è un uomo leggermente in sovrappeso, ha 55 anni, lo ricorda il Daily Telegraph, quindi non pare avere altre grandi malattie pregresse, quindi dovrebbe cavarsela. Però il fatto che avesse, dopo tanti giorni, probabilmente avrà preso le stesse medicine, c'è la privacy naturalmente, quindi non è che si sappia esattamente che medicina abbia preso, avrà preso le medicine che i medici stanno usando, quindi un cocktail di antivirali o altri farmaci, la febbre non scendeva, la tosse aumentava, cosa che qui c'è un po' di retroscena, perché si dice non si è mai fatto vedere in questi video che tossiva, ma i suoi più stretti collaboratori dicono che tossiva da molti giorni, e quindi anche in ambulanza si dice nel tragitto molto breve tra Downing Street 11, dove era temporaneamente in autoisolamento, e l'ospedale St. Thomas, gli hanno dato dell'ossigeno, quindi non una vera e propria intubazione, però comunque un aiuto alla respirazione. E Giulia, dopodiché naturalmente c'è, sì scusa. Sì. No, no, prego, prego, finisci pure. No, naturalmente c'è poi tutta i messaggi anche degli avversari politici, che giustamente in questo momento non possono che augurargli di riprendersi prontamente. Non c'è, ho visto più, come purtroppo spesso capita, ho visto più commenti inqualificabili sui social sulla stampa o in televisione o anche nelle trasmissioni radio che ho ascoltato. Senti Giulia, in questi giorni si è discusso molto anche nelle grandi aziende internazionali, le multinazionali, e la questione dei dividendi, no? Si è detto anche per esempio che alcuni aiuti in Italia alle aziende arriveranno, le grandi aziende, se non come si dice, daranno staccheranno i dividendi per i loro azionisti. E qui c'è una notizia che mi riferisci su JP Morgan. Sì, Financial Times lo mette in prima pagina, Jamie Dimon, che è l'amministratore legato di JP Morgan, che tra l'altro è anche il presidente di quel Business Roundtable che in agosto aveva rotto un tabù americano, che era quello di mettere l'interesse degli azionisti al primo posto, dicendo dobbiamo cambiare priorità, al primo posto ci devono essere anche l'ambiente, la sostenibilità sociale, e ha in una lettera agli stakeholders, agli shareholders, cioè agli azionisti, ha proprio detto preparatevi perché quest'anno per la prima volta nella storia di questa banca di super successo il dividendo non verrà con una certezza quasi completa, non verrà staccato, da una parte perché c'è il rischio di una recessione, quindi ci si prepara, si mette fieno in cascina, ma poi anche proprio per una questione di immagine. Tra l'altro sono tante anche le aziende in Italia, mi è appena arrivato il comunicato stampa di Ferragamo, ma settimana scorsa era arrivato quello del gruppo Tod's, che hanno fatto la stessa scelta, cioè i dividendi che naturalmente riguardano il 2019 erano già pronti, divisi, preparati, non verranno staccati perché per questo duplice motivo, insomma, non appare né opportuno né razionale staccare dividendi in questo momento. Ecco, se ce ne fosse stato bisogno, sì, abbiamo una misura ancora una volta confermata di quanto sia importante, epocale questa crisi, Giulia. Sì, sentivo che parlavi con Carlo del calcio, c'è il Data Watch di oggi di Financial Times che dice, fa vedere quali sono i paesi dove ci sono ancora delle possibilità che i campionati di calcio finiscano. L'unico paese in Europa che ha detto chiaramente la stagione per noi è finita qua è il Belgio, tutti gli altri, Italia compresa naturalmente, hanno ancora, abbiamo sentito l'altro giorno di Rummenigge del Bayern, che auspica appunto una ripresa del campionato magari anche dopo l'estate per finirlo entro l'anno e l'anno solare, e altri paesi insomma sono ancora lì che tentennano. Quindi forse in Italia c'è questa questione predominante degli stipendi, però sul calcio, sul mondo dello sport in generale, appunto anche Financial Times in prima pagina fa notare questa grande incertezza sul futuro. Giulia, capitolo Stati Uniti, capitolo America, 1150 vittime nelle ultime 24 ore, sono tante anche per l'America. Sì, dopo la pausa che si è preso un giorno, Donald Trump ieri ha fatto una conferenza stampa, se vogliamo sentire le sue parole, adesso è tutto concentrato sui tamponi che in effetti in questo momento vengono fatti, e in questo passaggio lo sentirete, naturalmente dice siccome siamo quelli che hanno fatto più tamponi in assoluto nell'universo, nella galassia quasi, verrebbe da dire, allora è ovvio che abbiamo più contagiati. Un ragionamento che abbiamo sentito fare anche qua, che però appunto, come dici tu, poi deve fare i conti anche con il numero delle vittime, ma sentiamo Donald Trump. Sentiamo. We have now done 1,790,000 tests nationwide. That's more than any other country in the world. Hence we have more cases. Che ha detto? Sì, la sua, insomma, questa, abbiamo fatto più test e quindi abbiamo più casi. Ma su queste esagerazioni, queste iperboli di Donald Trump, che cominciano a farsi vedere anche in alcuni sondaggi, che cominciano a mostrare qualche crepa nelle reazioni soprattutto del suo elettorato a questo modo di gestire la crisi, di minimizzarla anche a questo ottimismo, potremmo dire non della ragione, un ottimismo forzato. E sentiamo il suo più famoso imitatore, si chiama John Di Domenico, che prendendo spunto da quando Donald Trump ha fatto il test negativo, ci fa capire come per Donald Trump sia sempre tutta una questione di iperboli. In fact, it was so negative that the doctor said they never saw a negative number so low, so low. They said it was beautifully negative. Ha fatto una battuta, che ha detto? Perché la voce era somigliante. Sì, dice, era così negativo, il mio test era così negativo, così talmente tanto negativo, quando sappiamo che una cosa può essere o negativa o positiva, okay, non così tanto negativa, e quindi proprio dà l'idea che, e questo purtroppo si è visto anche nella conferenza stampa di ieri, il giornalista della CNN che ha tentato di chiedere sulla questione dei ventilatori se verranno inviati a New York, che resta la città che ne ha più bisogno, lui scocciatissimo ha detto che CNN non fa che diffondere fake news. Quindi questo è un po' l'umore negli Stati Uniti, dove tra l'altro si riapre anche il tema delle prossime elezioni primarie, che a questo punto devono per forza essere fatte via posta. Si comincia a discutere anche di cominciare ad avviare il processo per il voto via posta, sì, anche per le elezioni di novembre. Quindi insomma si sta cercando di pensare a una fase 2 anche per quello che è l'anno elettorale degli Stati Uniti. Abbiamo ancora un paio di minuti per chiudere. Che altre notizie hai raccolto per noi? Sì. A proposito di fase 2, ho notato questa cosa, così mi fa quasi un po' tenerezza, perché gli austriaci, ma lo dico con tutto il rispetto possibile, hanno sempre un po' di complesso, non dico di inferiorità, però insomma si sentono i fratelli minori dei tedeschi per certe cose, naturalmente in primis per le questioni economiche. E questa volta, che sono così avanti, perché abbiamo visto tutti il cancelliere, il giovane cancelliere austriaco che dice siamo pronti alla fase 2, la Bild dice gli Ösis, che è il modo scherzoso che hanno i tedeschi di indicare gli austriaci, ci stanno superando. E però questa notizia, che è serissima, perché se un paese dell'Unione Europea riuscisse già a entrare nella fase 2, cioè di graduale riapertura, in questo caso a partire dal 14 aprile, di alcuni esercizi commerciali e di alcune aziende, sarebbe un'operazione interessante da osservare. Ci aprono anche tutti gli altri quotidiani tedeschi con la foto del cancelliere che si toglie la sua mascherina e appunto avvia questo esperimento. In Israele invece succede il contrario, si sta parlando di un lockdown totale man mano che ci si avvicina a Pesach, e poi la notizia è che il ministro della salute, che è una persona di fede ortodossa, che aveva definito l'epidemia di Covid un castigo per la diffusione dell'omosessualità, è risultato positivo al coronavirus. Questa è la notizia che danno tutti i siti israeliani in questo momento, tra l'altro il ministro della salute, quindi è una cosa un po' così, quegli scherzi della storia. Grazie Giulia Crivelli, è tutto anche per oggi, è tutto anche per questa puntata di Effetto Giorno con Andrea Roccabella in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo tra poco per i titoli delle 14.